d'uopo sforzati, ma sei tu forse l'uomo. Tu sei pagliaccio. Vesti la giubba e la faccia in farina, la gente paga e ridere vuole. Oh, e ogni